Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Questa puntata di Mebius deve necessariamente iniziare in un modo molto diverso da tutte le altre. Una settimana fa eravamo esattamente in questo studio. Gli studi sono delle stanze divise in due da una parete che è un grande vetro che attraverso il quale non passano i suoni, e dall'altra parte di questo vetro c'era Rudy, che adesso non c'è più. Poche ore dopo quella registrazione, un attacco di cuore e la sorte se l'è portato via. Chiara, noi oggi vogliamo ricordare Rudy, che noi lo chiamavamo Rudy come se fosse in modo assolutamente divertito, un nome d'arte. Lui si chiamava Fabio. Fabio Cantadori. È molto difficile iniziare questa puntata e noi abbiamo sempre di solito un tono un po', diciamo, informale, e questa volta è davvero difficile riuscire a sorridere. Comunque ci proveremo, perché Rudy aveva fatto del sorriso il suo stile di vita. E lui sorrideva su questa cosa che nel lontano 2007, nel settembre del 2007, quando Mebius ha visto la luce, la prima puntata di Mebius, noi ci siamo interrogati sul fatto se i pinguini avessero o meno le ginocchia. Rudy adorava questo quesito, e allora abbiamo pensato di riproporvi, insomma, la voce di Simonetta Corsolini, la ricercatrice del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Siena, che in quel lontano settembre 2007 ci aveva risposto: i pinguini hanno o non hanno le ginocchia? Allora, le confermo che i pinguini hanno le ginocchia. Però dovrà anche dirmi che fanno di tutto per far pensare che non le abbiano, questo è un dato. Beh sì, se uno guarda un pinguino, soprattutto in piedi, sulla terraferma o sul ghiaccio, sicuramente pensa che sia una specie di pallottolina con due piedi, diciamo. Una gamba corta che potrebbe essere, diciamo, dritta dritta di una quindicina di centimetri, con due piedoni, e quindi per quello si cammina in quel modo. Invece le hanno le ginocchia, ma allora come mai viene fuori quella camminata? Come le usano, mi viene da dire, o più che altro mi viene a dire come non le usano? Perché non si vedono le ginocchia? Non si vedono perché è una strategia di risparmio energetico e di calore, nel senso che un corpo tozzo, diciamo quasi sferico, consente ai pinguini di disperdere poco calore, e quindi questo in un ambiente così freddo come l'Antartide è estremamente vantaggioso. Questo, diciamo, è abbastanza intuitivo. E anche quell'andatura, diciamo, trotterellante ha un po' la funzione di risparmiare energia da parte dei pinguini. Un'altra immagine che può chiarire diciamo il concetto è quella di un pinguino mentre si tuffa in acqua. Ecco, in questa posizione, cioè proprio in quella del tuffo mentre è in aria e sta per entrare in acqua, noi possiamo vedere le ginocchia che sporgono, diciamo, in una posizione ventrolaterale. Si vedono sostanzialmente. Sì, si può vedere questa protuberanza, chiamiamola così, che è il ginocchio. Ma praticamente quando sono invece fuori stanno come seduti. Sì, possiamo dare questa immagine. Come quando noi appunto ci raggomitoliamo per terra, e allora le ginocchia ci arrivano quasi sotto il mento, no? Sì, e poi sì. Così se ci muovessimo avremmo quasi direi la movimentazione del pinguino, insomma. Certo. Quando invece in acqua lo vediamo molto, molto agile, sì. Però le sue gambe non sono particolarmente utilizzate nel nuoto. Nel nuoto, diciamo che loro, il mezzo di propulsione sono le ali, che sono potentissime, la coda e i piedi, che appunto abbiamo visto sbucano dal corpo, fungono un po' da timone. Lei chiama ali quelle che probabilmente noi tendiamo a chiamare le due braccia del pinguino. Sì, esattamente. Le due ali sono i nostri arti superiori, cioè le nostre braccia, che l'evoluzione negli uccelli che volano ha adattato per il volo, appunto. Nei pinguini, che sono animali marini, vengono utilizzate come magari un pesce utilizza le pinne. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata a lei e a tutti gli ascoltatori. Due giorni fa, il 12 febbraio, ma del 1809, nasceva Charles Darwin. E infatti questa settimana si è celebrato il cosiddetto Darwin Day in tutto il mondo e in Italia ovviamente, nelle città principali senz'altro. Noi abbiamo deciso di raccontarlo un po' a nostro modo, scegliendo uno insomma dei temi che vengono trattati, che sono stati trattati al Museo di Storia Naturale qui a Milano, perché si è deciso di raccontare un po' l'evoluzione del cibo anche in occasione chiaramente di Expo. Si è deciso di dargli questo taglio. Abbiamo scelto uno degli argomenti che forse ci piaceva di più e partiamo direi presentando la nostra ospite, che è Anna Alessandrello. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Lei è conservatore di paleontologia del Museo di Storia Naturale proprio qui a Milano. Insomma, si è parlato, ecco, la domanda che vi siete posti è: cosa abbiamo mangiato quella sera a cena 3,5 milioni di anni fa? E noi chiaramente vogliamo raccontarlo anche ai nostri ascoltatori. Avete trovato un vecchio menù? Abbiamo trovato una serie di vecchi menù, moltissimi, alcuni sicuramente dedotti in modo indiretto, cioè non direttamente raccontati dai nostri antenati, certo, ma raccontati dai loro resti fossili. E quindi siamo partiti dalla dentatura di alcuni dei nostri antenati più lontani, il gruppo degli australopitechi, e ci siamo interrogati su che cosa potevano mangiare, anche pensando al loro ambiente, all'ambiente in cui vivevano. E che cosa si mangiavano? Allora, sicuramente molti vegetali anche duri, coriacei, tuberi che riuscivano a trovare nel suolo. Dobbiamo ricordare che l'ambiente in cui vivevano era un ambiente di savana, quindi abbastanza arido, e non certo un ambiente di foresta, che è quello in cui oggi vivono i primati attuali, e quindi dove le risorse alimentari sono sicuramente più ricche. Più disponibili, un ambiente certo. Più ostile, senz'altro, insomma. Sì, sicuramente più difficile e anche pericoloso, perché sicuramente questi ominidi potevano costituire delle prede per i grandi predatori della savana. Certo, convivevano con animali con alcune difficoltà, ecco. Ecco, sì. E sicuramente molti di loro, sicuramente più antichi, erano capaci ancora di arrampicarsi sugli alberi e quindi in qualche modo di sottrarsi a questo pericolo. Quindi una dieta quasi esclusivamente vegetariana? Per la maggior parte. A un certo punto però è molto probabile che abbiano anche imparato, e qui parliamo forse già del genere Homo, quando compare il genere Homo e ci spostiamo per cui nel tempo, probabilmente riuscivano a catturare anche piccoli animali. Inizia probabilmente una dieta carnivora, o dieta diciamo che porta verso una situazione che è quella nostra attuale. Noi siamo onnivori, no? Quindi l'utilizzo di utensili, di lance, di schegge. A un certo punto cominciano a comparire i primi utensili, e qui questi noi li ritroviamo sempre nei depositi associati alle ossa, e quindi sappiamo che sono stati probabilmente utilizzati dall'ominide con cui li troviamo associati, e questi utensili ci dicono che potevano essere utilizzati in modo più o meno sapiente, ma comunque forse non ancora per uccidere all'inizio, ma per scuoiare un animale. E probabilmente il primo comportamento, il primo accesso alla carne è stato un comportamento un po' da spazzini, un po' come si comportano attualmente le iene e gli avvoltoi. Cioè animali morti per altre faccende. Animali per altre ragioni. Uccisi da predatori e che poi a un certo punto queste carcasse venivano abbandonate, e quindi c'era libero accesso, certo, a chi non aveva in quel momento ancora strumenti efficaci. Ecco, senta, c'è sempre quella bella immagine dell'incendio che si sviluppa, degli animali che muoiono, e allora noi e i nostri antenati scoprono il cibo cotto. Sì. Può essere vero, secondo lei? Sì, forse non è così lineare il percorso, ma sicuramente a un certo punto, con la scoperta del fuoco, non fuoco occasionale, ma la capacità di produrlo, chiaramente porta anche alla cottura del cibo e quindi a una riduzione sicuramente del pericolo di batteri, di infezioni e di cose di questo tipo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eravamo rimasti alle prime cotture. Siamo qui che chiacchieriamo di menù preistorici e così via insieme ad Anna Alessandrello. Ci siamo fermati qualche istante fa parlando della grande scoperta, la scoperta forse più fondamentale per noi che non saremmo qui a raccontare, che è quella del fuoco. Da lì è cambiato tutto, nel senso che lei ci ha raccontato sia dal punto di vista dei vegetali, che non erano certo le insalatine che abbiamo adesso, sia dal punto di vista della carne, certo avevano un sistema digerente molto meno delicato del nostro, forse. Questo non glielo so dire, perché non abbiamo tracce di sistemi digerenti. Certo, i più antichi avevano un'ottima masticazione, perché noi troviamo queste mandibole, mascelle, con una dentatura, insomma, un apparato dentario straordinariamente efficace, e quindi non saprei parlarvi della digestione, ma sicuramente masticavano molto bene quello che certo ingerivano. Vero è per esempio che ci sono alcune curiosità, una cosa per esempio scoperta di recente: si pensava che la dieta del famosissimo uomo di Neanderthal fosse limitata alla carne, che quindi venissero cacciati animali di vario tipo e che di questi, che solo di questi lui si nutrisse. In realtà di recente si è scoperto che anche lui mangiava la verdura, un po' di vegetali. Ma com'è possibile scoprirlo di recente? Cioè, che cosa avete trovato? Sono stati fatti degli studi sulla dentatura e sono stati trovate delle tracce, delle analisi molto particolari, sono state trovate delle tracce di carboidrati e probabilmente anche delle tracce nelle feci di una molecola che indica un'alimentazione di tipo vegetariano. Perché insomma non è carino da dire, però insomma i coproliti cosiddetti, insomma la cacca fossile, insomma ci dà delle informazioni davvero straordinarie, certo, su questo. Non solo, ad esempio, se ci spostiamo in tempi sempre antichi ma un pochino più recenti, intorno ai 15.000 anni fa, tra i 15 e i 17 mila anni fa, nelle grotte di Lascaux sono state ritrovate delle ossa chiaramente frantumate dall'uomo, e quindi probabilmente venivano proprio spezzate le ossa, utilizzato il midollo eccetera, appartenenti a giovani renne. Ma lei si sta riferendo all'osso buco praticamente, cioè mangiavano il midollo? Sì. Allora l'osso buco era di renna, tra l'altro. In questo caso era di renna, era un po' sofisticata la cosa. Ma in generale questi siti preistorici è piuttosto comune trovare ossa spezzate intenzionalmente, quindi probabilmente proprio per accedere al midollo, che aveva una e ha, credo tuttora, una grossa capacità nutrizionale. Certo. Poi, oggettivamente è molto buono. Va bene, e per il gelato dobbiamo aspettare molto tempo. Ci sembra che non ci siano dei dessert, almeno non raccontati. Una cosa bella che mi piacerebbe dire è che nel momento in cui l'uomo comincia a incidere le rocce, quindi a dare queste rappresentazioni artistiche del mondo che lo circonda e del suo mondo, quindi incisioni, pitture rupestri, eccetera, ci racconta proprio i suoi menù, in un certo senso, perché dipinge o ritrae bufali, insomma la fauna, bufali, che incontrava. Certo, cervi, lepri, pesci. Anche pesci, e qui siamo però ormai alle soglie del Neolitico. Ci stiamo avvicinando. Va bene, grazie Alessandrello, è stato davvero interessante anche raccontare così un po' l'evoluzione attraverso il cibo, che è un po' anche il tema di questo 2015. Quindi grazie e buon Darwin Day, buon Darwin Week a tutti. Grazie. Buon lavoro al museo. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Se il 12 febbraio è la data della nascita di Darwin, oggi il 14 febbraio è San Valentino. E anche ogni anno lo festeggiamo. E tu dove sei finita? Allora, io per festeggiarlo sono andata a vedere uno spettacolo teatrale che si chiama Il Neurone Innamorato, e quindi scienza e cervello e amore e via, festeggiamo così. Io per te sono pronto a non dormire mai più. E infatti, senza discutere, ho accettato di vivere in questo appartamento, senza imposte e senza tapparelle, di fronte a un locale notturno con l'insegna luminosa più fastidiosa della città. Ma che cos'è il sonno di fronte al nostro amore? Hai presente la stufetta? Non funziona! Non funziona e fa fumo! Abbiamo anche la caserma dei pompieri sotto casa, non ci facciamo mancare niente, eh? Aspetta che guardo la stufetta. Amore, i pompieri si sono fermati proprio qui sotto, davanti al portone. Saranno venuti per il tuo bruciore di stomaco, eh? Battuta! Ma che battuta, stordita! Sta andando tutto in fumo, deve essere la stufetta che è andata in corto. No, amore, peggio! Brucia la casa qui sotto! Amore, ci sono i vigili! E non del fuoco, i vigili! E c'è anche il carroattrezzi! E gli sta portando via la macchina! Amore! La nostra prima multa insieme! Mentre la nostra casa brucia! Che avventura romantica! Adoro l'odore del napalm la mattina presto! Amore mio romanticissimo e apocalittico! Sul palco del Teatro della Cooperativa sono qui dopo lo spettacolo Il Neurone Innamorato, insieme al professore di neurofisiologia, il professor Parasole dell'Università di Palo Alto, corretto? Esattamente, esattamente. Abbiamo appena assistito allo spettacolo? Si intitola Il Neurone Innamorato, sottotitolo L'amore è l'apostrofo rosa tra l'ipotalamo e la corteccia prefrontale. E voi, come il cacio sui maccheroni, durante appunto il programma di scienza, non potevamo in questo giorno San Valentino non parlare appunto di questo tema. Qui come c'è anche Manera, che vabbè, gli ascoltatori di Radio 24 già conoscono, qui nei panni del professor... Dal professor Manera, docente di sessuologia dell'Università di Monte Calvo. Di Monte Calvo, e poi la cavia umana. Esattamente, cavia umana è anche esempio sul palco di tutto ciò che i due professori spiegano. Claudio Batta, eccoci qua. Allora ragazzi, abbiamo capito che l'innamoramento, l'amore, non è più una questione di cuore, ma è una questione di cervello, professore. Eh beh, assolutamente, noi trasformiamo, produciamo sostanze col nostro cervello, adesso semplificando molto, hanno un'azione sul nostro fisico e noi lo viviamo in termini di emozioni, questo è quello che succede, però alcuni meccanismi sono, non dico guidati al 100%, ma almeno aiutati molto dalla predisposizione genetica e dalla chimica, mettiamola così. Buonasera, gentile pubblico. Sono il professor Parasole e il professor Manera. Scusate la brusca interruzione. Forse le signore già si erano fatte prendere dal romanticismo della storia. E gli uomini probabilmente stavano pensando: che palle la solita commedia romantica. Allora stavo a casa a guardare Tempesta d'amore. Però forse prima è il caso che, insomma, invece di entrare nei dettagli, ci presentiamo un attimo. Ecco, voi il professor Manera, docente di sessuologia all'Università di Monte Calvo. Carlo, non Monte Calvo, non ironizziamo. E il professor Parasole, docente di scienze neurologiche presso l'Università di Palo Alto. Professore, come si trova a Palo Alto? Un po' scomodo, grazie. Lei fa parte dei famosi cervelli italiani in fuga? In fuga da mia moglie, sì. Allora non è solo un cervello che è scappato. Comunque. No, però comunque noi stasera siamo qui per dimostrarvi che l'amore non è altro che un cocktail di sostanze chimiche che si mischiano nel nostro cervello e che possono causare comportamenti alterati anche in maniera sostanziale. Insomma, agisce in una maniera un po' particolare. Esattamente come una droga. Quindi seguite la storia ma tenendo conto di questo input. Dallo spettacolo Io ero in platea ho capito che è anche una questione di chimica e di ormoni. Voi precisamente durante lo spettacolo ci fate capire questo, che è tutto un sali e scendi, un alti e bassi di quali ormoni? La fase iniziale dell'innamoramento, quella più dell'euforia, è legata alla dopamina, che dà sul cervello, noi lo diciamo anche, oggi proprio dimostrato, gli stessi sintomi, che non gli stessi effetti della cocaina, per esempio. E questa è la fase iniziale, poi ci sarebbe l'abbassamento della serotonina, ma qui poi entriamo troppo in termini tecnici, noi abbiamo dovuto un po' semplificare. Poi c'è la fase dell'affezione, ossitocina, vasopressina, gli ormoni. come diciamo noi, dell'attaccamento. E poi alla fine c'è noia mortale, noia mortale, noia mortale. Il sessuologo Manera ci riporta un po' sempre alla realtà. Tu poi sei sposata, quindi confermi. Confermo tutto. E conferma anche la nostra cavia. Confermo, nel senso che insomma ho dovuto imparare queste cose per poi farle, rifarle sul palco e per dimostrarle anche a, come esempio al pubblico. Io ovviamente insieme anche a due altre bravissime attrici che sono Roberta Petrozzi e Stefania Pepe. E noi tre insieme diciamo facciamo questo gioco esempio interpretando questi tre personaggi che fanno capire questi meccanismi biochimici dell'amore. Ecco, come avete visto, ci sono migliaia di parametri in base a cui scegliamo lui o lei, parametri che noi usiamo in maniera soggettiva, spesso inconscia, inconsapevole, però resta un altro mistero da affrontare, cioè perché certe coppie durano nel tempo e altre no. La scienza ha dato una risposta a questa domanda, professore? Sì, è una questione di culo. Professore, siamo qui per dire esattamente il contrario. Diciamolo. Lei si ricorda il famoso binomio ossitocina e vasopressina, sono ancora insieme? Sì, nel nostro cervello ovviamente. Sono i due ormoni che generano attaccamento tra uomo e donna, i due ormoni dell'attaccamento, in qualche modo gli ormoni della monogamia. Quindi, diciamo, sono quelli che stimolano l'attaccamento. Lei è monogamo? È monogamo lei? Monogamo, ma non osservante. Non mi faccia dire di più. Ecco, allora l'ossitocina genera l'attaccamento soprattutto nella donna e si forma, si produce nel corpo femminile soprattutto attraverso le coccole e durante l'orgasmo. Quindi fra marito e moglie non si produce mai praticamente. Ecco, quando nel cervello femminile c'è molta ossitocina si genera fiducia. Possiamo quindi dire che se un uomo va in banca con uno spray all'ossitocina e lo spruzza, la direttrice ti darà il mutuo senza chiederti garanzia? Assolutamente sì. L'uomo invece è più sensibile a un altro ormone che si chiama vasopressina. Esattamente, che è l'ormone maschile della fedeltà. So che molto spesso le signore si chiedono ma dove si compra? Se voi signore conoscete, se sposate con un uomo aggressivo, con un cattivo carattere, basta fare una puntura di vasopressina e lui immediatamente diventerà affettuoso, gentile, una persona che si mette le pattine anche in giardino. Sembra incredibile, ma questo esperimento è stato fatto in Svezia e ha funzionato, a parte le pattine. E da questo punto di vista, sempre nello stesso ospedale in Svezia, hanno fatto una ricerca su 522 uomini isolando il gene RS334, ovvero sia il gene maschile del tradimento. Chi ha questo gene predisposto praticamente condannato a tradire. Ed è una condanna veramente pesante. Un dramma vero e proprio umano, la predisposizione a tradire. E da questo punto di vista molte signore si staranno interrogando, molti uomini diranno dire che mia moglie per anni mi ha dato del porco, invece no, è un dramma umano. Per questo motivo noi professore abbiamo qui sì, i nostri... per tutte le persone, per tutti gli uomini che fossero interessati abbiamo già dei certificati precompilati. Basta aggiungere il vostro nome e 50 euro e testimonierà questo certificato che non siete voi dei maiali ma siete vittima del gene del tradimento e quindi non responsabili delle vostre scappatelle. Sul finire dello spettacolo tu ti innamori prima di Bernadette, questa donna bellissima, 22enne, giovanissima, però poi torni da tua moglie. Beh, è un classico, è una trappola in cui moltissimi uomini al giorno d'oggi cadono. Il problema è che la moglie non torna più da lui fondamentalmente, preferisce l'istruttore perché... E anche questo è un classico. Però il finale non dovevamo rivelarlo, vabbè, ma comunque. Marta. La scusa. Era per chiederti la scusa. Era per chiederti scusa che ti chiamo. Sì. Guarda, a un certo punto non ho capito più niente. E ho perso la testa. Amore, ho perso la testa. Sì. Però non ho mai smesso di pensare a te. Mai. Come? Ah, ti sto disturbando? Ah, sei a un meeting? Di spinning? Con l'istruttore? Ah. Ma dove? Amsterdam? Quella con i canali, i battelli. Sì, la conosco. È un po' la Venezia del Nord. Steve, serve un tachipirlone? Volete fare un augurio agli ascoltatori, anche se è sul finire della giornata? Facciamo l'augurio, quello di prima, che riescono ancora a fare l'amore dopo tanti anni, magari le coppie che sono ancora insieme riescono ad avere ancora un'attrazione sessuale da copiarsi selvaggiamente. Che serietà! Per farli produrre ossitocina e vasopressina in modo che il legame resti forte. E la nostra cavia come conclude? Che venite a vedere lo spettacolo perché è molto divertente. Lo confermo. Oppure se non volete venire state a casa ma fate l'amore, diciamo almeno diamo un senso alla cosa, o venite qui oppure vi accoppiate a casa. Se qualcuno volesse eventualmente fare l'amore dopo che è finito lo spettacolo, il professor Manera è a disposizione. Noi siamo sempre disponibili. Manera, Parasole e Batta sono sempre disponibili. Chiudiamo con questo bel messaggio d'amore, grazie. No, beh, per San Valentino va bene tutto, però qui c'è una bella storia tormentata, eh? Sì, lo spettacolo è davvero divertente, infatti insomma gli ascoltatori possono vedere se c'è una data vicino alla propria città, perché è davvero divertente. E noi questa puntata così, un po' con un peso allo stomaco, la terminiamo. Buona settimana a tutti. E a tutte, e ciao Rudy.